raccontare la mafia da un altro punto di vista. Giovanissimo, 26 anni, sociologo calabrese e ricercatore di etnografia urbana e sociale, De Biase ha analizzato le trasformazioni del suo paese in Irpinia per capire come fa la camorra a colonizzare le realtà urbane. A Trame presenta come si diventa camorristi. Ho iniziato a fare ricerca in contemporanea, insomma, con la mia iscrizione all'università, grazie alla cattedra di sociologia dell'Università di Napoli, Sor Ursula Benincasa, e al professore Petrillo, che qualche anno fa ha messo su un gruppo di ricerca di, per la maggior parte giovani, che si occupa appunto di topografia dello spazio, insomma si occupa di etnografia urbana e sociale. E dai tuoi studi di topografia e di etnografia sociale poi hai scritto un libro, Come si diventa camorristi. Ecco, in che modo si incrociano, diciamo così, i due temi? Di che cosa parla il tuo libro? Ho descritto il mio paese, semplicemente. Che paese è? È un paese dell'Irpinia che io nel libro ovviamente occulto e chiamo Monte Sacro, e ho scritto questo libro grazie a un rapporto fiduciario che avevo con vari testimoni, purtroppo per loro privilegiati, delle dinamiche di camorra, ma soprattutto della manovalanza di camorra. Una comunità che dal dopoguerra ad oggi è stata totalmente, completamente stravolta da comunità di pastori, di piccoli commercianti, insomma, per lo più artigiani. Una comunità che è stata travolta e abbracciata dalle logiche, insomma, della criminalità. La tua è un'ottica diversa da quella degli scrittori e dei giornalisti che abbiamo sentito fino ad oggi. Da ricercatore, in che modo la criminalità organizzata riesce ad insediarsi in questo territorio colpito da queste trasformazioni? Perché succede? Io ho provato ad analizzare soprattutto le condizioni materiali della trasformazione. Dal dopoguerra ad oggi le politiche industriali, i programmi di fabbricazione, con le successive trasformazioni delle rendite agrari in rendite edilizie, fino ad arrivare, nel mio caso, al terremoto dell'Irpinia del 1980, e quindi alla pioggia di miliardi che arrivò sull'Irpinia, per poi passare al grande mercato dei supermercati, quindi alla grande distribuzione, con il conseguente smantellamento delle microeconomie locali, insomma quelle che viene definite dai sociologi economia del vicolo, eccetera. Succede perché nel corso di queste trasformazioni le elite locali hanno catalizzato dei capitali, hanno interpretato dei capitali che provenivano dall'esterno, e c'è stato sempre questo rapporto molto interscambiabile tra elite locali, ceti politici e poteri criminali. Ecco, però nel caso dell'Irpinia raramente si parla di camorra, perlomeno raramente viene messo questo territorio sotto i riflettori per questo motivo. Molto raramente si parla di camorra, invece troviamo che già negli anni 60 ci sono state le prime lottizzazioni della camorra vesuviana, e quindi sin dagli anni 60 i potentati locali si sono interpenetrati con alcuni poteri criminali. Di fronte a questi fenomeni, alla trasformazione che tu hai osservato di questi fenomeni, si può tornare indietro e in che modo? Non credo che si possa tornare indietro. Forse serviva indubbiamente pensare a uno sviluppo di tipo diverso, che certamente non doveva passare per i poli di sviluppo, e quindi la delocalizzazione di molte industrie del nord che non avevano nessun mercato al sud e che non producevano mercato al sud ma sfruttavano soltanto la forza lavoro. Insomma, bisognava pensare a uno sviluppo di tipo diverso. Tornare indietro no, infatti nel mio libro tengo molto a precisare questo punto, insomma non faccio un'oleografia del passato, insomma. Bene, e dopo l'Irpinia e la camorra stai già lavorando a qualche altra ricerca o a qualche altro libro? Mi sembra di aver vinto, è ancora ufficiale, un dottorato a Bruxelles, e in quel caso mi occupo di emigrazione italiana a Toronto, però lo faccio comparando anche le esperienze dei rimasti, partendo proprio dal paese, dalla comunità che ho analizzato, che è una comunità che insomma, ha avuto un'emigrazione imponente verso Toronto, verso il Canada. Quindi probabilmente rincontrerai nuovamente la criminalità organizzata, perlomeno quella d'oltreoceano. Probabilmente sì. Italia in Controluce, la seconda edizione, cercateci tutti i giorni su Facebook, Twitter, oppure comunicate con noi via mail controluceradio24.it. Torniamo domani puntuali alle 6:30, naturalmente su Radio 24.